Su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Eccoci qui, primo appuntamento del 2012. Buongiorno a tutti, quindi da Francesco Puglisi. Questa è CRM Happy Radio, la radio che potete sentire e anche vedere tramite il nostro sito internet, che a tal proposito ve lo ricordo che è www.crmhappyradio.it. Nell'home page potete fare le vostre dediche, le vostre richieste. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, che sono il 335 56 37 251 oppure lo 0921 92 32 92. Musica, notizie abbastanza leggere, belle, fresche da tutte le parti del mondo, gossip, ma soprattutto le vostre richieste che possono giungere ai nostri numeri telefonici o, come già detto, al nostro sito internet. Vi ricordo che oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Mattia. Auguri a tutti coloro che si chiamano Mattia. Inoltre ricordiamo che il 30 gennaio del 1882 nasceva in America il 32esimo presidente degli States, il famoso Roosevelt. Facciamo gli auguri anche a Marino Bartoletti e a Marisa Passera, una conduttrice DJ di Radio 2. Poi chi c'è? Susanna Messaggio, un attore importante che è Gene Hackman, che sicuramente parecchi di voi riconoscono. Cominciamo subito con la musica, lo facciamo con la musica targata Italia, e questo è Antonello Venditti, che già sentite in sottofondo. Poi parleremo di questo secondo corso che abbiamo messo in campo per tutti coloro che vogliono cominciare a fare radio e comunque vogliono avere un primo approccio col mondo della radio. Quindi partirà giorno 20 febbraio. Antonello Venditti adesso. Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che dell'errore abbiamo fatto amore, noi due arterie diverse dello stesso cuore. Tu ora dove sei? Se vivi un'altra storia, passa il tempo lento, mi giro e mi tormento, e se ti chiamo lo so che trovo sempre spento. Perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due foglie cadute dallo stesso ramo. We'll be right back. compagnia fino alle ore 12 quest'oggi, quindi dalle 10 alle 12 un po' prendiamo la fascia oraria che durante i giorni pari della settimana viene egregiamente condotta da Mary Catalano, che salutiamo. Quindi abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo ripreso a fare musica con Antonello Venditti, che abbiamo sentito con questa nuova canzone intitolata Unica. Ancora musica di casa nostra, lo facciamo questa volta con la prima richiesta giunta al nostro sito internet. Lei è sicuramente una delle ragazze prodigio tirata fuori da tutti questi talent scout, Emma Marrone. E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui, e poi mi sento un po' strana e mi trema la mano, mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera. Ti avrei stretto forte forte e sai che non si poteva. E sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non ho più paura dello specchio che temevano. Eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio, e t'ho stretto forte forte, ed è lì che si poteva. E sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei così. Il 30 gennaio del 2007 la Microsoft mette in vendita il nuovo sistema operativo per personal computer Windows Vista, successore del Windows XP e anche conosciuto nel nome di Longhorn. Nel 2002, sempre nello stesso giorno, quindi il 30 gennaio, in una villetta di Cogne, in Valle d'Aosta, viene ucciso il piccolo Samuele Lorenzi di 3 anni. I sospetti ricadono sulla madre del bambino, Anna Maria. Slalom. Flashback. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati, lo scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, da ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia. Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Alle ragazze non chiedere niente, perché niente ti possono dare. e il tuo nome non è sui giornali, o si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, e finisci per dimenticare, o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati. Buia è la sala, devi ancora cominciare. Tu provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. Non ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova e una città per cantare. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Thank you. Non so se vi è mai capitato di pensare a quelle persone che malauguratamente sono state rapite, come ad esempio avvenne tantissimo tempo fa, oramai, per appunto il 30 gennaio del 1990, a Cesare Casella, che è stato tenuto dai suoi rapitori in una buca in Aspromonte, pensate un po', 743 giorni incatenato. È una cosa veramente pazzesca. Ancora musica, lo facciamo con una bella richiesta giunta al nostro sito internet. Ciao Veronica. Salutiamo i nottambuli che ci ascoltano a partire dalle 2 di notte, come già detto anche gli altri nostri colleghi, ci sono le repliche che partono dalle 2 di notte, noi circa saremo intorno alle 2:20. Come già anticipato all'inizio, partirà giorno 20 febbraio 2012 il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da CRM Happy Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso si terrà qui e avrà la durata di 4 settimane, quindi fino al 24 marzo del 2012. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. Three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I'll keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love, I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, you frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me room. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. Allora, il corso è completamente gratuito. Coloro che fossero interessati a partecipare possono mandare il proprio curriculum alla formazione @crmepiradio.it, oppure potete chiamare al 393 97 86 111 oppure al 335 75 17 903. Slalom Flashback. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare, come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il quanto il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, comanda, è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare. Notizie curiose, idee e tanta musica. Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più. Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera davanti alla TV. Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa quantità di delusione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto dentro di uno schema. Dicono che è vero che c'è solo un modo per risolvere un problema. Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa quantità di frustrazione. Dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più ora. Non c'è montagna più alta di quella che è una scalera. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione. dicono che è vero, sì, ma anche fosse vero, non sarebbe giustificazione per non farlo più, per non farlo più. Ora. Non c'è montagna più alta di quella che lo scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Ora. Salutiamo gli amici che ci ascoltano tramite il nostro streaming, che è www.crmhappyradio.it. Attualmente potete ammirare la costa di Cefalù, che è un po' grigia, però è sempre molto molto bella. Salutiamo anche i nostri amici che sono su Facebook, stanno interagendo tra di loro, parlano del più e del meno. Ma una cosa strana, stamattina leggevo qui su internet di una coppia, un marito e una moglie, che nel 30 gennaio del 1984 hanno vinto $1 milione ciascuno, avendo giocato, pensate un po', gli stessi numeri. Tra le onde, mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le luci. Tappeto di fragole. Se ridevi o no, qui trafitto sulla terra steso me ne sto. Ah! chi vuole diventare speaker lo può fare, grazie a CRM Happy Radio che organizza il secondo corso di formazione radiofonica. È semplice, basta inviare il proprio curriculum vita a formazione@crmhappyradio.it oppure potete telefonare al 393 97 87 111 o al 335 75 17 930. Una cosa molto importante, comunque il corso è completamente gratuito e avete l'opportunità di entrare in radio. Che cos'ero intorno a 20 anni? Un manicomio sul letto di danni. Sogni sciatti, notti di festa. Tiravo sassi alla tua finestra. Ma cosa hai visto in questo qui? E quella cosa è ancora lì? Oh no, oh no, oh no, oh no. E ora amore, dopo una vita, cosa pensi che ti dica? Sei l'aurora, sei la luce che squarcia il mio vuoto banale. Brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Davanti a te un protone schierato, esplode colpi e non prende fiato. Mai sarò con te ovunque andrai, ti prego dimmi che non t'abbandonerai. Del mondo, mentre io mi nascondo, è che non mi importa niente di quello che succede, nemmeno della gente. Voglio solo stare con te e rivederti ridere. E brucerò per te, mi ferirò per te. E la luna pensa per sé, se ne frega di noi, ma io lo so che tornerai. Mai e brucerò per te, mi ferirò per te, io brucerò per te, mi ammalerò per te. Amica cara, amica speranza, parti da qui, dalla mia stanza, e ora sali più in alto della paura che ci corrode, che ci tortura, e vai. Corrode che ti consuma e vola, io lo so che lo sai fare e niente ci potrà fermare più. Per te, io brucerò. In questi scioperi che ci sono in tutta Italia è incappata anche la Roma di Totti. Infatti le proteste dei lavoratori della Sigma Tau arrivano anche nel mondo del calcio. Dopo i blocchi, gli scioperi per evitare il licenziamento a parte del colosso farmaceutico, la protesta arriva quindi a Trigoria, davanti ai cancelli dove il pullman della Roma era in partenza per l'Olimpico in vista della sfida domenicale. Totti ha fatto altro che parlare con loro e rassicurarli. Slalom. Flashback. Amore mio, scrivo per te una canzone, lascia i problemi un momento, voglio pensare un po' a te. Ora sei tu l'unica cosa importante, l'unico vero messaggio. viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Got boring. You said you're going to bed soon, so I got me stalling. I can hear your voice in my head like, what is he doing? Oh, what is he doing? Cause I keep checking my cell phone and these missed calls. You texting me like I'ma kill y'all. If you don't get your ass up out of that club, and do you know what time it is? It's 5 o'clock in the morning. Ooh, my bad girl. This new boy got me tripping and I know that you mad girl. But you ain't gotta worry about nothing. Girl, I got you. Girl, I got you. She might come and find me. And then ask me kindly. Don't want her to go crazy. We do this every night and then we always wake up singing the same song. Shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. Too many thirsty girls up in this club for me to leave here with one of them. That's why I call her. And you'll be right at home waiting for me. iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closed at 6, left around 4:30. So by the time I'm at your crib, it's 5 o'clock in the morning. And you yawning. But I've been drinking all night and I feel like performing. Vi ricordo che questo è Slalom, la trasmissione che potete seguire ogni lunedì, mercoledì e venerdì a partire dalle 10 alle 12 in diretta da CRM Happy Radio, la radio che potete sia sentire che vedere tramite il nostro sito internet, che ve lo ricordo è www.crmhappyradio.it. Salutiamo tutti coloro che ci seguono a qualsiasi parte del mondo, ma salutiamo anche in particolare coloro che a partire dalle 2 di notte seguono le registrazioni di tutti i programmi di questa radio. Notizia interessantissima questa che viene dal Museo di Varsavia, che ha acquistato un modello costruito interamente con mattoncini Lego di un campo di concentramento nazista per una cifra intorno a 65.000 euro da un collezionista privato norvegese. L'acquisto comunque ha suscitato diverse polemiche. Il modello era stato fatto nel 1996. Slalom. Flashback. Letti di avvenimenti, di battaglie, voglie e doglie, letti che sanno tutto ormai, di vite maltrattate, di tragiche nottate, letti che non ti spieghi mai. Se vuoi conoscere chi sei, se vuoi sedurre la realtà, mettili a letto quei pensieri, è l'alba che li guarirà, gli errori tuoi finiti amori. È lì che si scatena l'anima, è pallida, anonima, rimescolando solitudini. Ognuno giace come merita, come si immagina, come vivrà. Lo stesso letto tu lo sai, stessa ostinata compagnia. Se fosse un angelo a svegliarti, a ricordarsi almeno lui, che ancora puoi, che non sei solo. Dimenticati letti, letti così distratti, sparati sotto al cielo blu, dove è iniziato il pianto e il cuore per incanto ha incontrato una poesia. È lì che ha un senso avere un'anima, perché chi può dimentica, trovagli un letto a certi uomini e rischierai di perderli. L'amore viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Non so più cosa fare, senza te cosa c'è? Mi fa schifo anche il mare, te. Sento che sto precipitando dentro un acquario senza pesci, mentre una radio sta annunciando che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più camminare senza tè o caffè, mi fa schifo nuotare, non so più galleggiare. Sento che stai precipitando dentro la mia disperazione, che laggiù la pace ancora non c'è, che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. Non so più dove sono, senza te non si sa. Non so più galleggiare, mi fa schifo anche il mare. Sento che stai precipitando, cosa serve? Dentro un acquario senza pesci, cosa faccio? Mentre una radio sta annunciando, cosa serve? Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare, non so più cosa c'è, non so più cosa fare, non so più cosa c'è. La 91enne Bernice Bates è entrata nel Guinness dei premiati come insegnante di yoga più anziana al mondo. La donna di St. Petersburg in Florida pratica yoga, pensate, dal 1960, e l'attività, ha dichiarato lei, l'ha aiutata molto a mantenersi in forma fino a questa età. Sanno, non mi fai più paura, non ho paura, no. La vinta hand, staff in the smother, suffered and cried, strapped, made me tough and never more with your shots to trouble. I rise above expectations, forget rip. He never been shit when I wanted to get pens, hustle to be I'm exactly what my next is. Then I tried to cash in on my dad's death. I wanted to vent, then I said nothing at all. The rule, you were never kin to me. Family is something that you never been to me. In fact, making it harder for me to see my father was the only thing that you ever did to me. Was I never saw enough for you. The last thing I said to you was I hated you. I loved you and that's too late to say to you. Just didn't know what to do. I had to deal with it. Even now deep down I'm still living. To think I used to blame me, I wonder what I did to you to make you hate me. I wasn't even bad. Life's a journey. Your mind wasn't an easy ride. You never even got to see me ride. I just wish you would have reached out. I wish you would have been round when I been down. I wish that you could see me now. Wherever you are, I really hope you found peace. But know that if I ever have kids unlike you, I'll never let them be without me. Faccio così, credo di più. Voglio che listen to My job's more like public service. My life just became yours to read and interpret. If you heard it, it'll come across a lot different. At times I throw fits when I read how they work it. You see me smile, now you're gonna have to see me hurt. Cause pretending everything is alright when it ain't really is a lie. Non so se vi è mai capitato che durante la notte ci si sveglia e avete mai dato un'occhiata a che ora realmente ci siamo svegliati? Un gruppo di scienziati ritiene che l'ora in cui ci si sveglia per frequente di notte è le 3.44. Quindi se vi capita la prossima volta durante la notte di svegliarvi, guardate, se non lo fate già in passato, l'orologio per capire che ora sono. Dico, questa è un'indagine, però gli scienziati non hanno rivelato il motivo di questo. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male. Ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo e se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, che se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. Troppo distratto. Slalom. Flashback. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. took a car downtown and took what they offered me to set me free. I saw the lights go down at the end of the scene. I saw the lights go down and standing in front of me. Ooh. In my scarecrow dreams, when they smash my heart into smithereens, be a bright red rose combust in the concrete, be a cartoon heart. Galli, chi è? È un austriaco. Ha avuto sempre il pallino dell'invenzione, ma come scapita spesso a diversi aspiranti inventori, le sue invenzioni erano spesso creative ma poco pratiche. Allora cosa ha pensato bene? Di aprire un museo delle invenzioni fallite. Quindi il fallimento può essere una strada verso il successo. Sembrerebbe di sì, vista la popolarità che sta raggiungendo il Museo delle Invenzioni Fallite, aperto da poco proprio in Austria. Quindi complimenti a Fritz Galli, che comunque è vero che ha fatto delle cose che non sono riuscite bene, ma comunque sicuramente il museo è quello che gli sta dando maggiori successi. Ancora musica, salutiamo Alessia, Veronica, Valeria, Valentina, che ci hanno scritto un sacco di belle cose tramite il nostro spazio Facebook. You Io l'ho sempre sostenuto e chi mi segue lo sa che comunque le notizie più strane che riusciamo a recuperare da internet vengono dal mondo statunitense, anche l'Inghilterra comunque non scherza mica tanto. Questa è sicuramente una delle più divertenti che ho letto in questo ultimo periodo e viene, pensate, dalla lontana Michigan. Allora, sono stati fermati alla polizia e quindi rende nervoso il fatto che vengono fermati alla polizia, e una ragazza che non era alla guida ma era accanto a chi portava la macchina ha pensato bene, per rilassarsi, di accendersi una bella canna, dove questa 32enne proprio ha dichiarato che era molto nervosa e quindi questa la rendeva rilassata. Slalom. Flashback. Was harming harder. state of pain. Questa intermediazione di Annie Lennox. Vi ricordo il secondo corso radiofonico di formazione che si tiene qui all'interno di CRM Happy Radio, partirà il 20 febbraio 2012, quindi potete iscrivervi. Il corso avrà la durata di 4 settimane, quindi fino al 24 marzo, ed è completamente gratuito. Vi ricordo inoltre che questa è la trasmissione che potete seguire ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 in diretta su CRM. Adesso io vi saluto, vi auguro un buon proseguo dei programmi di CRM e vi rinnovo l'appuntamento quindi a mercoledì prossimo. Sleep. symphony.